Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Autostrade, raggiunta l'intesa coi Benetton, pronti ad uscire da Aspi, entra Cassa Depositi e Prestiti, Atlantia sale in borsa oltre il 20%. Esulta il Movimento 5 Stelle, per il PD è una soluzione di buonsenso, Salvini critico, prevede spesa pubblica e cantieri fermi, Toti tanto rumore per nulla. Verso il Consiglio europeo di venerdì, Conte alla Camera e l'Italia è stata decisiva per la sfida storica dell'Unione europea. Calcio, Serie A, l'Atalanta si riprende il secondo posto e stasera Juve a Sassuolo e Lazio a Udine. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, giornata caratterizzata dall'accordo raggiunto nella notte tra il governo e i Benetton, proprietari di tramite Atlantia di Autostrade per l'Italia, proprio sul futuro della concessione autostradale. A quanto si apprende, l'accordo prevede un passo indietro dei Benetton, con un ingresso invece della società pubblica Cassa Depositi e Prestiti con il 51%, che di fatto renderà Aspi, Autostrade per l'Italia, una public company. Previsti anche in questo accordo una revisione della concessione dai risarcimenti alle tariffe. Cominciamo da qua. La soluzione è arrivata nel cuore della notte. Governo e Aspi, la società controllata da Atlantia che fa capo alla famiglia Benetton, hanno lavorato per chiudere l'intesa sulla transazione. Una trattativa serrata che ha visto in prima linea il ministro dell'economia Roberto Gualtieri e la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli. La svolta è arrivata quando i Benetton si sono detti disponibili a scorporare Aspi da Atlantia per consentire l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in Autostrada. I Benetton hanno accettato le condizioni del governo, rivendica il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio, da sempre favorevole alla revoca della concessione autostradale. Lo Stato diventerà il primo azionista di Autostrade, la famiglia Benetton avrà meno del 10% delle quote, puntualizza Di Maio, e dentro qualche mese uscirà definitivamente da Aspi. La revoca della concessione, soluzione cara ai 5 Stelle, resterà però sempre sul tavolo fino a quando non si concluderà il negoziato, sottolinea Di Maio. La transizione piace anche al PD, una buona scelta, commenta il segretario Dem Nicola Zingaretti, sicurezza e interesse pubblico prima di tutto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dopo circa 6 ore, terminato all'alba il Consiglio dei Ministri notturno su Autostrade ed Aspi, e nel comunicato del CDM sull'intesa tra il governo e la società si legge: c'è un accordo tra il governo e Atlantia per l'uscita graduale del gruppo dei Benetton da Aspi e l'ingresso di CDP, punto fondamentale della transazione che eviterebbe la revoca delle concessioni. Atlantia e Aspi si sono impegnate a garantire l'immediato passaggio del controllo di Aspi ad un soggetto a partecipazione statale, cioè Cassa Depositi e Prestiti, con un mandato a CDP da una parte per definire il percorso per l'uscita graduale di Benetton e l'ingresso appunto di Cassa Depositi e Prestiti con il 51% che renderà Aspi di fatto una public company, dall'altra per delineare un nuovo accordo di revisione della concessione su tutti gli aspetti della convenzione, dalla riduzione delle tariffe ai rimborsi e ai risarcimenti che per la vicenda del Ponte Morandi restano a carico di Aspi, 3,4 miliardi di euro, insieme allo stop ai ricorsi in giudizio. Tempi strettissimi, CDP deve avviare entro il 27 luglio il negoziato che dovrebbe portare all'uscita progressiva della famiglia veneta, con un'ulteriore diluizione in coincidenza con la quotazione in borsa di Aspi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo accordo parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Cercheremo di spiegarvi chiaramente cosa cambia per i Benetton, cosa cambia per lo Stato e per i cittadini. Adesso invece le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che questa mattina è intervenuto alla Camera in vista del Consiglio europeo di venerdì. No a compromessi al ribasso, ha detto Conte parlando del Recovery Fund. Ci racconta tutto Sergio Nava. Sì, buongiorno, è cruciale che la decisione del Consiglio europeo sul Fondo europeo per la ripresa venga assunta entro luglio, così il Premier Conte, che come diceva Alessio, ha aggiunto non deve essere svilita da un compromesso al ribasso, sarebbe inaccettabile dal punto di vista politico, economico e anche morale. Così appunto il Premier nelle comunicazioni della Camera. Conte ha ribadito i paletti negoziali del nostro governo sul Recovery Fund, conscio che venerdì e anche sabato i negoziati al summit comunitario saranno duri, forse i più duri a livello europeo da 8 anni a questa parte. Conte si appella alla solidarietà, la decisione sul Recovery Fund è stata senza precedenti, modifica i termini del rapporto tra Commissione e Governi, tocca a noi capi di Stato e di Governo assumere una decisione altrettanto coraggiosa. Quando sono in pericolo le fondamenta dell'Unione, nessuno Stato può avvantaggiarsi a scapito di altri, o vinciamo tutti o perdiamo tutti, ha sentenziato. Il Premier ha anche esplicitato i margini negoziali con il gruppo dei paesi nordico frugali, calando il suo unico vero asso nella manica. Sui rebates e gli sconti ogni nostra sensibilità non può che essere condizionata a una piena ed effettiva apertura di quegli stessi paesi sull'intesa relativa a Recovery Fund, ha affermato, e poi ha promesso anche il massimo coinvolgimento del Parlamento in questa cruciale fase, e ha annunciato il Premier, appunto dopo la pausa estiva, la presentazione a Bruxelles del piano di ripresa e resilienza. Saremo i primi a farlo, ha assicurato. Ed è tutto. Grazie Sergio Nava. Adesso invece cambiamo argomento, una buona notizia che riguarda la lotta al coronavirus. L'azienda biotech americana Moderna ha infatti annunciato che dal 27 luglio entrerà nella fase finale, quella dei test clinici per il suo vaccino anti-Covid, diventando così la prima società al mondo a raggiungere questa tappa. Parteciperanno a questi test clinici 30.000 persone, sentiamo. Sale la curva dei contagi da Covid-19 nel mondo e torna il lockdown per milioni di persone. In Europa è corsa contro il tempo per scongiurare un'eventuale seconda ondata di infezioni e un altro confinamento totale, con provvedimenti che puntano al rafforzamento dei sistemi sanitari, ad isolare rapidamente eventuali nuovi focolai con zone rosse localizzate e ad una vaccinazione capillare a partire anzitutto da quella contro l'influenza stagionale. In Spagna, dopo il veto imposto lunedì da un tribunale della Catalogna, è stato approvato con una nuova risoluzione governativa il lockdown per 6 milioni di persone nella città di Leida e in altri 7 comuni della zona di Segrià a causa di nuovi focolai di coronavirus. Negli USA, dove si contano più di 136.000 vittime, molti stati hanno dovuto chiudere di nuovo gran parte delle attività essenziali da poco riaperte, a partire da California, Texas e Florida. La contea di Miami è ora il nuovo epicentro della pandemia. Intanto l'azienda americana Moderna ha annunciato che dal prossimo 27 luglio prenderà il via l'ultima fase di test sul vaccino per il coronavirus. Il virologo statunitense Anthony Fauci ha detto però di prevedere un vaccino anti-Covid-19 non prima di 12-18 mesi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da oggi in Italia invece in vigore le nuove misure anti-Covid, le ha annunciate ieri il ministro della Salute Speranza, secondo il quale la partita per sconfiggere il virus è tutt'altro che terminata e dunque serve prudenza. 114 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, mai così pochi da fine febbraio, pur con un livello di tamponi oltre 40.000 nella media del periodo, e un rapporto che si abbassa fino allo 0,3%. La diffusione del virus dunque rallenta in Italia, anche se il virus continua a circolare. La battaglia non è vinta, siamo fuori dalla tempesta, ma non ancora in un porto sicuro, ha detto ieri il ministro della Salute Speranza, motivando così la proroga delle misure di restrizione fino al 31 luglio. Mascherina obbligatoria al chiuso, igiene delle mani, distanziamento, le misure cardine, e da oggi in Lombardia le mascherine non sono più obbligatorie all'aperto se si sta ad un metro l'uno dall'altro, e poi discoteche chiuse tranne in Alto Adige, vietate sagre, fiere ed eventi pubblici, sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena, divieto di ingresso, quarantena per chi arriva da paesi extraeuropei, divieto di arrivo da 13 paesi inseriti in una blacklist, mentre sarà possibile dal 15 luglio sistemare il proprio bagaglio a mano nella cappelliera degli aerei. Su alcuni treni a lunga percorrenza ci si potrà poi sistemare in fila indiana derogando alla regola di un metro. E intanto sul fronte della cronaca arriva la notizia che l'imprenditore veneto ricoverato a Vicenza e contagiato in Serbia è uscito dalla terapia intensiva. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Al 30 giugno di quest'anno 209.000 nuclei familiari hanno percepito almeno una mensilità del reddito di emergenza, e quanto scrive l'INPS nella sua relazione, ricordando che sono 518.000 le persone coinvolte per un importo medio mensile di 572,48 euro. Ora la cronaca. La Guardia di Finanza sta eseguendo una serie di perquisizioni, acquisizioni di atti alla Link University di Roma. nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Capitale, 14 gli indagati per un presunto giro di crediti fiscali legati a finti progetti di ricerca. Era invece la vasta operazione anti-indrangheta in Veneto. 33 arresti e più di 100 indagati. Sono questi i numeri della vasta operazione che vede impegnati da stamane il ROS con il supporto dell'Arma Territoriale in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Calabria. Gli ordini di custodia cautelare sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della locale DDA. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi, con le aggravanti mafiose. Centro dell'inchiesta il Veneto. Il ROS ha accertato la presenza nella regione di strutture 'ndranghetiste. Più di 100 le informazioni di garanzia e si sta procedendo a numerose perquisizioni e sequestri di beni, mobili e immobili, per un valore complessivo che supera i 3 milioni di euro. Proprio in questi minuti il procuratore della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, e il comandante del ROS, generale di divisione Pasquale Angelo Santo, stanno illustrando i dettagli della vasta operazione presso la Procura della Repubblica DDA di Venezia. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era un'ultima ora che riguarda le comunicazioni di Conte alla Camera. Via libera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Premier in vista del Consiglio europeo. Nel testo compare l'invito, come abbiamo appena sentito, ad attivare il Next Generation, il fondo, già quest'anno, mentre non vi è alcun riferimento al MES. I voti favorevoli sono stati 286. Siamo allo sport, il calcio nell'anticipo della 33esima di Serie A. L'Atalanta ha travolto per 6-1 il Brescia, ormai rassegnata alla retrocessione. Oggi ben 7 le gare in programma, la capolista Juventus di scena sul campo del Sassuolo, una delle squadre più in forma del momento. Sentiamo la vigilia nelle parole del tecnico bianconero Sarri. Questo scudetto non è scontato, è ancora da lottare, da soffrire e da combattere. Abbiamo la fortuna che siamo a mano di noi stessi, sappiamo se facciamo 11 punti nelle prossime 6 partite e andiamo all'obiettivo, ma non penso che ci sia qualcuno così superficiale da darlo per scontato, perché nello sport un risultato scontato non esiste nella maniera più assoluta. Questo è il quadro completo delle partite di oggi alle 19.30, Bologna-Napoli, Milan-Parma, Sampdoria-Cagliari, alle 21.45 Lecce-Fiorentina, Roma-Verona, Sassuolo-Juventus, come dicevamo, e Udinese-Lazio si completa domani con Torino-Genoa e Spal-Inter. 13 e 12 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco e, come anticipato, torneremo sull'accordo per quanto riguarda la questione autostrade. Cercheremo di spiegarvi chiaramente che cosa cambia per i Benetton, che cosa cambia per lo Stato e che cosa cambia per i cittadini. 349 238 6666 per i vostri messaggi, tra poco. La passione per il digitale vi coglie? Abbiamo una rosa di soluzioni per voi. Se sei un commercialista, con Profis hai Sportello Cloud per collaborare con i clienti e gestire i servizi digitali di oggi come fatturazione, conservazione, incassi, pagamenti e tutti i nuovi servizi di domani, con la comodità di una piattaforma online accessibile dove vuoi e quando vuoi. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Effetto giorno. Queste notizie di oggi. Autostrade, raggiunta l'intesa coi Benetton, pronti a uscire da Aspi, esulta il Movimento 5 Stelle, per il PD è una vittoria del buonsenso, Salvini critico prevede spesa pubblica e cantieri fermi. Verso il Consiglio europeo di venerdì, Conte alla Camera parla del Recovery Fund, in Europa vinciamo tutti o perdiamo tutti. Calcio Serie A, l'Atalanta si riprende il secondo posto e stasera Juve a Sassuolo e Lazio a Udine. E allora, alle 13 e 15 minuti, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, riapriamo il dossier autostrade, questa volta per cercare di sviscerare l'accordo di cui insomma si è saputo nella notte. In realtà dobbiamo anche capire quali sono i punti fermi, e lo facciamo insieme a Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cerchiamo proprio anche di andare per punti fermi. Innanzitutto abbiamo un lungo Consiglio dei Ministri, una lunga attesa, un comunicato di Palazzo Chigi che annuncia quello che sembrerebbe, Maurizio, un accordo, perché ricordiamoci che alla vigilia avevamo, come dire, una doppia possibilità, cioè, stando agli annunci, la possibilità di una revoca della concessione, quindi un'azione di imperio in qualche modo del governo, che poi sarebbe andato incontro a contenziosi eccetera eccetera, oppure un accordo con i Benetton che attraverso Atlantia controllano Aspi. Da che parte, diciamo, di queste due possibilità ci situiamo? Allora, ci situiamo sicuramente dalla parte dell'accordo, che è quella che noi avevamo sempre previsto, ossia c'è un consenso dei Benetton a uscire in una determinata maniera, però bisogna capire ancora qual è questa maniera, perché non è stata spiegata molto bene, soprattutto entrano nuovi soggetti e anche qui bisogna capire con che grado di coinvolgimento, e questo è molto importante da capire, perché chiunque guidi autostrade dovrà fare determinate cose che costano, dureranno molto tempo, costano, ci sono degli impegni sia di sicurezza sia a tagliare le tariffe, sono cose che sono apparentemente inconciliabili, perché ovviamente qui dobbiamo fare 20 miliardi per risistemare tutto quello che non è stato sistemato negli anni scorsi a favore invece dei profitti privati. Dall'altra parte c'è anche l'impegno a tagliare le tariffe, quindi stiamo coinvolgendo dei nuovi soggetti, dalla Cassa Depositi e Prestiti a probabilmente fondi privati, e bisogna capire questi privati, che ovviamente non sono enti di beneficenza, come si convincono a entrare in questo forte investimento in autostrade, se devono cacciare soldi per risistemare la rete e contemporaneamente ridurre i profitti rispetto a quelli che sono stati i profitti storici dei Benetton. Perché, perché come abbiamo ricordato fin qua, adesso è arrivato il momento di fare gli investimenti, gli incassi sono alle spalle e, diciamo, i guadagni, se vogliamo definirli così, relativamente facili di autostrade con i pedaggi a fronte di investimenti non a un livello non sufficiente, adesso è arrivato il momento di farli questi investimenti, quindi chiunque entrerà, tu dici, bisogna chiarire questo aspetto. Per quanto riguarda, insomma, i dettagli un po' di quello che si è saputo, il meccanismo sembrerebbe appunto un ingresso di Cassa Depositi e Prestiti con forse fino al 51%, con un passo indietro dei Benetton iniziale intorno al 10-12%, che, se abbiamo capito bene, consentirebbe di avere ancora una voce in consiglio di amministrazione, poi in un'eventuale riquotazione di Aspi, una diluizione ulteriore che li farebbe scendere del tutto. Detto questo, Maurizio, perché, se, come sostiene il Movimento 5 Stelle, e qui ti chiedo, diciamo, non tanto una valutazione politica ma sempre di merito, se è la vittoria dei cittadini, se i Benetton hanno perso, perché oggi per esempio il titolo di Atlantia, società in cui i Benetton hanno la maggioranza e che controlla Autostrade per l'Italia, va a guadagnare il 25% in borsa, cosa succede? Beh, perché sicuramente Atlantia con questo accordo ha evitato un default tra 19 miliardi, c'è da dire questo, e in parte poi parte di questo rimbalzo, cospicuo rimbalzo, è dovuto anche al fatto che il titolo Atlantia, con le voci, con le dichiarazioni politiche dei giorni scorsi, si era molto molto depresso, quindi è tutto qui il discorso. Si era detto invece, per quanto riguarda, adesso ti chiedo di valutare la posizione dello Stato italiano, no? Cioè dei cittadini, ma dello Stato in particolare, che diventerà protagonista di questa operazione. Si era detto che la revoca potrebbe costare troppo allo Stato. In questo caso, invece, con questo accordo, quanto dovrebbe investire lo Stato italiano per diventare socio? Quanto, diciamo, è il costo e quale sarebbe poi il ruolo? Allora, dipende da cosa intendiamo per Stato, nel senso che la Cassa Depositi e Prestiti è ovviamente un organismo che risponde, diciamo, alla volontà politica dello Stato, però è una giuridicamente una società normale come tutte le altre, quindi bisognerà vedere, allora, quindi verrà utilizzato il risparmio postale, che è ciò che gestisce la Cassa Depositi e Prestiti, verrà utilizzato per ricapitalizzare fare autostrade. Questa ricapitalizzazione che cosa fa? Fa tornare Autostrade in condizioni di bancabilità, perché attualmente ricordiamo che abbiamo una società che ha 10 miliardi di debiti e 7 miliardi di valore, quindi i suoi titoli di debito sono stati declassati a spazzatura da tutte le agenzie di rating, quindi questa operazione innanzitutto serve a far riconquistare rating e quindi possibilità di contrarre ulteriore debito. Questo debito servirà sicuramente per fare gli investimenti che vanno fatti, e parliamo di 14 miliardi, e poi le manutenzioni, parliamo di altri 20 miliardi. Sono operazioni queste che poi verranno ripagate appunto sul mercato, quindi bisogna aggiungere gli interessi del debito che adesso si ritornerà a contrarre, quindi il costo finale lo sapremo soltanto quando tutto questo verrà fatto, quindi quando la ricapitalizzazione sarà avvenuta e i debiti saranno stati contratti. Non si può fare attualmente una valutazione, anche per il fatto che da questo costo per lo Stato dovremo detrarre quello che si riuscirà a strappare dai Benetton a titolo, diciamo, di penale per quello che è successo, parliamo di Genova e tutto il resto delle manutenzioni omesse. Questa è una voce su cui c'è molta opacità, non si è capito a tuttora in che cosa consiste l'accordo preso nella notte. In ogni caso preme dire che dal punto di vista dei cittadini c'è anche un'altra partita, nel senso che non vorrei che tutta questa attenzione su autostrade distragga dal problema del resto della rete autostradale e anche dal resto della rete stradale, quindi ANAS e province. Anche lì c'è da fare molto molto molto lavoro, mettere molti molti molti soldi, perché l'Italia purtroppo è un paese in default da questo punto di vista. Per anni non abbiamo fatto manutenzioni né in pubblico né in privato, il pubblico in particolare poi non aveva soldi, il privato invece ha fatto in modo tale da farsi approvare dallo Stato tariffe che preservassero solo i profitti e non garantissero le manutenzioni, si è fatto finta che il bisogno di manutenzione non ci fosse. Questa è un'operazione che va fatta per la sicurezza di tutti quanti e non vorrei che adesso si accantonasse solo perché si è trovato un accordo su autostrade. Grazie Maurizio Caprino, grazie. E staremo a vedere, perché siamo solo all'inizio di questa la svolta, diciamo così, che è stata intrapresa all'ultima curva, se vogliamo usare una metafora, diciamo, stradale, da questa questione, che però deve ancora essere, come dire, scritta nei dettagli, nei particolari. Lo ha detto anche il ministro Gualtieri, sarà comunque una operazione che richiederà alcuni mesi. Ancora per quanto riguarda le infrastrutture, adesso vogliamo fare invece velocemente il punto sull'andamento del settore dei voli aerei. Oggi torna a funzionare, non a pieno regime ancora, ma insomma torna a riprendere l'aeroporto di Milano Linate. Carmelo Presti di Simone era lì per noi e ha fatto un punto un po' sull'andamento di tutto il settore. Dopo quasi 4 mesi riparte l'aeroporto milanese di Linate. Alle 10.40 il primo volo della Lufthansa per Francoforte, il volo della ripartenza dopo l'emergenza sanitaria. Seguiranno altri 3 voli per Madrid, Malta e in serata ancora per Francoforte. 4 oggi anche gli arrivi. L'Italia invece ripartirà il 24 luglio. Traffico aereo che si svilupperà già nei prossimi giorni con 10 voli all'ora. Tanto l'entusiasmo tra gli operatori che lavorano qui nello scalo milanese. Bar, tabacchi ed edicole. Grandi sorrisi e voglia di rientrare a pieno regime e diversi i motivi per cui tornare a viaggiare dopo l'emergenza sanitaria. Vado a trovare, a conoscere il mio nipotino, primo nipote. Ah, bene, complimenti. Per cui sono diventata nonna. Ah, complimenti. Finalmente si parte. Gioia, entusiasmo, insomma fa anche piacere vedere un aeroporto sempre che ha lavorato in maniera così intensa dopo 4 mesi ripartire. Fa tristezza e nello stesso tempo molto piacere, certo. Finalmente il motore si è riacceso e e si riparte, pronti via. Basta mantenere le norme di, rispettare le norme di sicurezza e penso che non ci saranno problemi. Noi siamo venuti qua in vacanza. Ah beh, da dove? Cioè, da Madrid. Io sono italiano, però la mia famiglia vive ad Asti. E quindi siamo venuti in vacanza, diciamo. Dopo 4 mesi finalmente vedo la mia famiglia. Lufthansa intensificherà il traffico aereo con questi numeri enunciati da Steffen Weinstock, direttore delle vendite della compagnia tedesca su Italia e Malta. Per l'inati abbiamo previsto per il mese di luglio 17 frequenze, arriveremo a settembre a 21, cosa vuol dire 3 voli quotidiani su Francoforte, e tornerà anche la Brussels Airlines con 2 voli giornalieri su Brussels nei prossimi settimane. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Alle 13:26, invece, cari ascoltatori, vogliamo raccontarvi una storia, perché quando si parla di Green New Deal, tra 2 giorni inizia il Consiglio europeo a Bruxelles, abbiamo appena sentito le parole del Presidente del Consiglio Conte, insomma, ci sarà tutta la questione dei fondi, Recovery Fund, e anche dei fondi europei per la transizione ecologica. Di che cosa parliamo? Si parla anche di progetti come questo di cui stiamo per raccontarvi. Tecnologie, quindi investimenti, occupazione, professionalità al servizio di una visione dell'ambiente che sia più sostenibile. Di questo progetto parliamo con Marcello Mele, che è direttore del Centro di Ricerche Agroambientali Enrico Avanzi dell'Università di Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, è un progetto che è partito, diciamo, nella sua fase attuativa, ma immagino che ci stiate lavorando da prima, proprio in questi giorni, con il primo volo di un drone con sensori di alta qualità, che serve a monitorare lo stato di salute di alcune colture e per capire se ci sono malattie, diagnosi da fare e problemi, insomma, che possono essere proprio valutati con questa tecnologia. Ci racconta, professor Mele, di che cosa si tratta? Sì, innanzitutto premetto che è un progetto il cui responsabile scientifico è il professor Nicola Silvestri, che è un membro del centro di ricerca che io dirigo. Oggi il professor Silvestri non era disponibile, quindi ve lo racconto io brevemente. È un progetto che si basa appunto su tecnologie innovative basate sulla sensoristica. Cosa succede? Su questi droni si possono montare diversi tipologie di sensori. Sì. E questi droni, proprio per la loro facilità di utilizzo e il loro relativo costo limitato in questo momento, possono fare un po' da sentinelle delle nostre colture, quindi essere molte volte in campo al posto dell'uomo e osservare al posto dell'uomo non solo con gli occhi, come farebbe l'uomo, quindi con quello che viene chiamato il visibile, ma anche con sensori che riguardano l'infrarosso, il vicino, il lontano, l'infrarosso termico, immagini multispettrali. Questi ci consentono di essere più precisi nella visione dello stato delle colture. Quindi immaginatevi una coltura che può essere coltura di pieno campo, può essere un girasole, un mais, un grano, e può essere affetto da patologie come tutti gli esseri viventi. Queste immagini possono darci delle informazioni aggiuntive rispetto a quello che vedrebbe anche il singolo agricoltore con i propri occhi. Grazie a questo tipo di quindi possono vedere meglio di quello meglio che una persona ancora, trovandosi in quel punto potrebbe vedere. Ma per esempio che cosa possono percepire questi droni? Immagino confrontando con banche dati che avete alle spalle per capire cosa c'è che non va in una pianta, per esempio, in una cultura. Nella fattispecie lo confronteremo sia con banche dati ma anche con osservazioni che verranno fatte sul terreno. Quindi sì, valideremo le immagini dei droni con osservazioni fatte sul terreno con gli stessi strumenti ma con un operatore che li opera sul terreno, perché la differenza poi tra un'immagine presa dall'alto e un'immagine presa da vicino con lo stesso strumento sul terreno. Quindi noi valideremo queste immagini e riusciremo a capire ad esempio se una certa malattia fungina, una virosi, una batteriosi che può affliggere una pianta è presente e intervenire tempestivamente, quando prima ancora che si diffonda per tutta la coltura, quando ancora poche piante sono malate, si può intervenire con dei principi attivi di varia natura che evidentemente devono essere mirati a combattere. Esatto. Dico bene, professor Mele, se dico, come usava lei l'espressione, mirati, che questa tecnologia è amica dell'ambiente, nel senso che individuando punti precisi in cui intervenire, magari anche con dei prodotti per il trattamento di queste piante, si evita di, come dire, di irraggiare un po' a casaccio, no? Si riducono le quantità. Si riducono le quantità e si punta dove c'è il problema. Esatto, cioè solo se c'è il problema si interviene. Lei tenga conto che un tempo si interveniva a calendario, cioè ogni tot giorni si dava un prodotto per prevenire, eccetera, eccetera. In questo modo si può evitare di farlo. Esatto, solo se il problema c'è. Se è un problema che può essere effettivamente dannoso alla produzione, nel senso che io potrei avere una patologia ma essere estesa in maniera talmente limitata da non inficiare da la non produzione. Richiedere l'intervento, quindi non intervengo assolutamente. Okay? Assolutamente, grazie. La stessa cosa può essere fatta per i fertilizzanti, cioè se la coltura ne ha bisogno si danno, oppure se no non si danno. Assolutamente, grazie professor Marcello Mele dell'Università di Pisa, grazie per essere stato con noi e per averci raccontato questo progetto che si chiama Dalla fascia pedemontana al mare. 13:31 minuti, noi facciamo il break, torniamo tra poco con le informazioni di borsa, aspetto anche i vostri messaggi al 349-238-6666, dopodiché parleremo del caos nel caos scuola, nel senso che insomma, in attesa di sapere come ripartiranno le scuole a settembre, in realtà c'è una sottocategoria che è quella degli asili nido e delle scuole materne su cui le ombre sono ancora predominanti. 349-238-6666. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Tra le notizie di oggi, autostrade, via i Benetton, entra Cassa Depositi e Prestiti, esulta il Movimento 5 Stelle per il PD, vittoria del buonsenso, Salvini critico, prevede spesa pubblica e cantieri fermi, positivo il titolo Atlantia in borsa, sale di oltre il 20%. Il Premier Conte alla Camera in vista del Consiglio Europeo di venerdì sul Recovery Fund, l'Italia è stata decisiva per questa storica sfida. Asili, nido, graduatori assenti, in tanti comuni, famiglie in attesa dei posti per settembre, ne parliamo tra poco. Calcio Serie A, l'Atalanta si riprende il secondo posto in attesa delle altre, stasera Juve a Sassuolo e Lazio a Udine. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666, chiede questo ascoltatore, credo di aver capito che l'accordo per l'uscita dei Benetton da Autostrade riguarda essenzialmente l'assetto proprietario della società, non mi è invece chiaro quale sarà l'evoluzione dell'assetto operativo per quanto riguarda manutenzioni, investimenti di sviluppo, eccetera, e quale sarà il destino degli attuali dipendenti, chiede Michele. Per quanto riguarda i dipendenti non dovrebbe cambiare niente a quello che si sa, a quello che si è capito, perché la società opererà in continuità. Invece per quanto riguarda l'aspetto operativo, ha ragione lei, non si sa, perché in realtà aspetterà ai nuovi soci che entrano al posto di Benetton fare queste spese per sostenere queste spese per gli investimenti. Dunque la Cassa Depositi e Prestiti, gli altri investitori che sono previsti in arrivo dovranno tirare fuori le risorse necessarie per fare tutte queste operazioni. Allora sentiamo anche su questo il commento del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Data la performance di borsa, è chiaro che nella partita autostrade per ora ha vinto anche la speculazione, proprio quella speculazione che il governo vede come nemico pubblico numero uno. La parola revoca della concessione che ha guidato per un biennio l'azione di una politica punitiva ad uso social, ma incapace di fare i conti con la realtà di un risarcimento incombente di 23 miliardi, è rimasta parola tabù ed è rimasta in archivio. Un accordo in genere è sempre una buona notizia, ma ci sono due aspetti che restano da affrontare. Il sistema di definizione delle tariffe e la calibratura rispetto agli investimenti, senza che un vantaggio sui pedaggi per il cittadino viaggiatore diventi alla fine un aggravio fiscale per il cittadino contribuente. Finora il sistema non ha funzionato e va rivisto. Poi va affrontato il tema dell'assetto azionario della nuova public company che diventerà la nuova autostrada destinata alla borsa. L'idea, come è scritto nella nota di Palazzo Chigi, di azionisti graditi a CDP e al governo, non è propriamente una formulazione adatta al mercato, soprattutto se nella società ci sono cospicue partecipazioni di capitali stranieri. Adesso facciamo il punto su un'altra questione, quella anticipata dai titoli, ed è la questione della riapertura degli asili nido e delle scuole materne a settembre. Che cosa sappiamo fino adesso? Non molto. Cerchiamo di fare un passo in avanti con Cristina Giachi, che è vice sindaca di Firenze. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. È anche presidente della commissione istruzione dell'ANCI nazionale, che raccoglie i comuni italiani. Allora, quello che abbiamo capito è che i comuni, che sono responsabili dell'organizzazione dei servizi nidi e materne, non sono ancora pronti, non sono ancora usciti con le graduatorie. Le famiglie sono appese ai siti, stanno cercando di capire se entrano in graduatoria, se avranno insomma il posto a settembre. Come mai sta accadendo questo, Giachi? Qual è il problema su cui si stanno scontrando i comuni? No, io vorrei difendere tutti i miei colleghi dei comuni che non possono al momento definire le graduatorie perché non abbiamo le linee guida che ci diranno come saranno composte le sezioni da settembre negli asili nido. Spieghiamo bene. Spieghiamo bene, perché effettivamente allora ci sono le linee guida del MIUR che sono uscite per le scuole. Ma solo per la scuola. Per la scuola dell'obbligo. Esatto. Scuola e primaria, quindi secondaria, si è creato, giusto dire che si è creato una specie, come dire, di vuoto per quanto riguarda cosa dovete fare voi nel momento in cui riaprirete il servizio. È così. Noi siamo in attesa delle linee guida sui servizi della scuola dell'infanzia e degli asili nido, perché abbiamo soltanto le indicazioni che ci sono state date per i centri estivi. Ed è fondamentale, perché dobbiamo sapere quanti bambini possiamo mettere in ogni sezione, in ogni gruppo, quanti educatori ci vogliono e quindi quanto personale abbiamo e quanto ce ne manca. Il distanziamento, se è un criterio, non lo è anche per i bambini molto piccoli. Il tema della stabilità dei gruppi, che è fondamentale, no? Sempre gli stessi bambini, sempre gli stessi educatori per poter monitorare un'eventualità di contagio. Se non abbiamo queste risposte non possiamo formare le sezioni e sapere quanti bambini potremo accogliere. Ecco. E quindi i miei colleghi non possono pubblicare le graduatorie perché non sanno fino a dove potranno arrivare. Diciamo. Ecco. Sembra incredibile che siamo arrivati sin qua a metà luglio e non abbiamo ancora le basi per poter organizzare la riapertura dei nidi e materne a settembre, dopo aver trascorso due mesi tra commissioni, discussioni, eccetera. Chi è che dovrebbe, Giachi, diciamo, uscire con queste informazioni che noi, vi consentono di... Certo. Noi siamo al lavoro... C'è con il governo ministeri. O le regioni? Perché sappiamo che c'è l'autonomia regionale, no. Però c'è... Noi aspettiamo delle linee guida dal governo e stiamo lavorando in una cabina di regia dove sono anche le regioni, sì. e che collabora col comitato tecnico scientifico perché il primo punto di partenza, la partenza vera è il requisito necessario per la sicurezza che deve stabilire il comitato tecnico scientifico. Mi gira la testa, glielo dico sinceramente, perché sono una serie di comitati, di riunioni che noi seguiamo da mesi, quindi so esattamente certo. Di quello di cui sta parlando. Il problema è che non sappiamo invece esattamente cosa accadrà a settembre. Dico solo questo, poi la faccio concludere. Non ci sarebbe nulla di male, credo, se si stesse ancora discutendo adesso su come organizzarsi, perché è naturale che dipenderà anche dalla curva del contagio, dipenderà da... più tempo abbiamo, meglio ci possiamo organizzare, però nel frattempo una risposta alle famiglie bisogna pur darla. E come se ne esce? Stiamo sollecitando, abbiamo fatto una prima riunione questa settimana con la cabina di regia e abbiamo fatto presente quello che io adesso ho detto. Diteci quali sono i criteri, dopo ci organizziamo e lo realizziamo, ma intanto ci facciamo un'idea che cosa possiamo dire alle famiglie. Perché quanto altrimenti... tempo pensa che ci possa occorrere ancora? Perché sì, potrà andare in vacanza chi andrà in vacanza ad agosto sapendo se i figli avranno il posto? No, dovrà farlo, perché se non sappiamo cosa dobbiamo fare entro le prossime due settimane non siamo in grado poi di farlo. No, immaginatevi bene. Che ci voglia qualche spazio in più, assumere più personale. Noi siamo in noi onda fino alla saperlo. Fine di luglio, quindi saremo qua a raccontarlo. Ci risentiremo. Grazie Giachi, grazie per a ora. A voi, arrivederci. Tuoi, Carlo, Genta sono grandi, no? Di figli, ormai non hai problemi di asili nidi e di materna, no. Almeno non questi, diciamo. Altri problemi, altri mio problemi. Caro. Allora, oggi senti, quante altre partite si giocano? Che tutte. Succede? Stasera si giocano tutte le partite, salvo le due di domani, che sono Torino-Genoa e Spal-Inter. Sì. Per il resto, programma completo della 33esima aperta dalla solita Atalanta, che ne ha fatti altri 6, 93 gol in 33 partite in campionato per l'Atalanta. Sono una spettacolare. Cifra sproporzionata. 6-2 al Brescia, che è sempre più discesa verso una Serie B che sembra inevitabile. Oggi attenzione, perché è ultimo, forse uno degli ultimi incroci pericolosi per la Juventus, perché gioca con il Sassuolo, che è in forma straordinaria. Tanto da mettere in discussione. Vediamo, perché la Juventus nelle ultime due non è stata brillantissima. Sì. Perso a Milano, pareggiato in casa con l'Atalanta per rigore ricevuto alla fine, e quindi questa sera insomma con il Sassuolo e l'Inter alla Lazio alla finestra. Lazio che gioca oggi a Udine con l'Udinese, e Inter che giocherà domani sera con la SPAL. Quindi ultimo sprint, Alessio. C'è anche qualcosa da dire sulla MotoGP questa settimana? C'è molto da dire. Andiamo verso un weekend in cui avremo insomma l'overbooking di sport, perché c'è ancora Formula 1 stavolta in Ungheria e parte il Moto Mondiale a Jerez. Prima tappa di questo campionato, con grandi novità di mercato che però vedremo soltanto l'anno prossimo, e questo mondiale che dovrebbe essere ancora nel segno di Marquez, ma vediamo come sono messi gli sfidanti, Ducati compresa. Grazie Carlo. Ciao Alessio. Appuntamento naturalmente dopo le 14 con il pomeriggio sportivo di Radio 24, 13:47 minuti. Noi invece andiamo in break, torniamo tra poco. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Effetto giorno. 13:49 minuti, il nostro momento dello sguardo sul mondo, e come sempre quando Giulia Crivelli è assente giustificata ritroviamo il comandante, il capitano di Nessun Luogo è Lontano, Giampaolo Musumeci. Ciao Giampaolo. Addirittura Alessio, buongiorno, buongiorno sì. A te gli ascoltatori. Non ti offendere. Capitano, comandante. Comandante, anzi, dai, meglio comandante. Capitano questa... è più quell'altro, lasciamolo stare. E però sempre presente ingiustificato. Esattamente, soprattutto questo. Allora oggi le mie spie mi fanno sapere che Nessun Luogo si occuperà di Trump. Anche per forza, perché c'è stata una conferenza stampa del presidente statunitense Donald Trump che è stata segnata da uno sbotto, una certa allergia da parte di un paio di emittenti, tra cui la CNN, perché il presidente doveva aggiornare, era una conferenza stampa istituzionale a tutti gli effetti, ma poi si è trasformata in un comizio elettorale di 45 minuti. In cui Donald Trump intanto ha parlato delle sanzioni con la Cina, ma poi ha attaccato Joe Biden veramente per lunghi, lunghi minuti, tanto che l'anchorman della CNN a un certo punto ha tolto il collegamento e sono rientrati in studio, evidentemente stizziti, così come altre emittenti televisive. Cercheremo di fare il punto sulle tante cose che ha detto Donald Trump e sul significato anche di questi suoi discorsi un po' scomposti, ecco, direbbe qualcuno. I sondaggi non vanno bene, è evidente che il presidente sta cercando di recuperare posizioni. Questa è un po' la nostra prima pagina. Poi devo confessarti, Alessio, avevamo dimmi. Un po' l'imbarazzo della scelta, perché c'erano tantissimi temi quest'oggi. Per esempio un tema che recuperate è Israele, no? Si era un po' perso dai radar, voi naturalmente ogni tanto fate il punto, però insomma c'è questo governo, ci sono questa questione delle annessioni delle colonie, cioè adesso qual è il tema in primo piano su Israele? Ma allora, diciamo, il gancio di cronaca arriva da una serie di arresti, una trentina, che sono stati effettuati a Gerusalemme per una serie di proteste del movimento delle bandiere nere. Ne parlammo qualche tempo fa in una puntata di Nessun Luogo. È un movimento che nasce spontaneo, è apartitico, però ha forti connotazioni politiche, cioè è anti-Netanyahu. Loro non vogliono che un presidente accusato di corruzione, un primo ministro, perdonatemi, accusato di corruzione, continui a reggere le sorti dello Stato ebraico. E quindi vi faremo sentire la voce di una esponente di questo movimento. Arresti a Gerusalemme, a Tel Aviv invece per turbativa dell'ordine pubblico, questa è stata l'accusa della polizia israeliana, mentre a Tel Aviv la manifestazione si è svolta in assoluta tranquillità, come già è successo, tutti distanziati, tutti con le mascherine, hanno espresso il loro dissenso. Poi dicevi bene, sullo sfondo c'è sempre questa annessione del 30% della Valle del Giordano che Netanyahu vuole assolutamente concretizzare, ma come sappiamo ancora sta un po' rallentando, ha paura secondo me anche delle reazioni internazionali su tutta la Giordania, che ha detto attenzione perché questo è un atto bellicoso a tutti gli effetti. Un altro tema ricorrente, Giampaolo, è quello della Libia, che per tanti aspetti insomma ci interessa molto molto da vicino. Esattamente, Libia, che sembra calato il sipario un po' su quello che sta accadendo, non è affatto così. Il Financial Times ha pubblicato un'inchiesta pregevole che è durata tantissimo tempo, alcuni anni addirittura, si chiama Wirecard, è, per semplificarlo, poi lo racconteremo meglio in dettaglio dalle 4 in poi, un sistema diciamo economico, finanziario e militare, ha a che fare con spostamenti di linee finanziarie e la presenza di almeno 1200 mercenari della Wagner, questa società privata russa che ha fornito appunto combattenti sul fronte di Haftar. Approfitteremo di questo pezzone incredibile del Financial Times per rifare il punto su che cosa. Allora, da un lato il presidente al-Sisi egiziano ieri si è pronunciato e ha detto attenzione, siamo pronti a entrare in territorio libico, che è una dichiarazione di guerra a tutti gli effetti verso Tripoli, verso Sarraj. I pozzi di petrolio sono nuovamente stati bloccati da Haftar e questo per la già disastrata economia libica è un serissimo problema, e rimane il grandissimo punto di domanda sulla battaglia di Sirte. Tutti aspettano, tutti ammassano truppe, città che ha dato i natali a Muammar Gheddafi, città che ricorderete qualche mese fa, quando Haftar iniziò la sua lunga cavalcata verso Tripoli, la milizia 604, che doveva essere fedele a Sarraj, a un certo punto, invece di sbarrare i cancelli di Sirte, li ha aperti e ha fatto entrare Haftar, garantendo il passaggio verso Tripoli. Staremo a vedere che ruolo giocheranno le milizie, perché come sappiamo in Libia il puzzle è sempre molto difficile da comporre e i tasselli, come se ogni volta che ne posizioniamo uno facciamo saltare gli altri, non so se la metafora è sufficientemente efficace, direi che potremmo titolare caos libico e non sbagliamo mai. Insomma, sembra un film, Giampaolo, per come ce lo stai raccontando tu, se non fosse uno scenario reale. Sembra un film, purtroppo duole come sempre ammettere, ma insomma non per sparare a zero sulla Croce Rossa, e non nella Croce Rossa c'è una certa assenza registica, ecco, è un film che viene scritto da tanti registi, c'è il Cairo, c'è la comunità internazionale, ci sono i russi, ci sono gli Emirati Arabi Uniti, c'è la Turchia. E allora vogliamo dire che l'Italia fa la comparsa? Vogliamo dire questo? Possiamo dire anche questo? Beh, l'hai detto tu quindi, Alessio. Ma io perché ti ascolto, ti ascolto e so esattamente come tu, quando metti i panni del commentatore e giudichi la posizione in realtà assente dell'Italia, in abbastanza assente, adesso non vogliamo semplificare troppo i giudizi, sul terreno libico. Grazie Giampaolo, l'appuntamento con voi di Nessun Luogo tra le 16 e le 17 naturalmente. Tutto invece per Effetto Giorno, per quanto riguarda la puntata di oggi, con Filippo Reggi in regia, Luca Cremonese in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao, a domani. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.